giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È affondato un peschereccio nelle Marche, due morti e due dispersi. Ad avvisare la guardia costiera un familiare che era al telefono con un uomo dell'equipaggio. I conti del 2014, secondo i dati Istat, deficit PIL al 3%, pressione fiscale al 43,5%, riparte la spesa delle famiglie nel 2014 con un più 0,5%. L'accordo tra Forza Italia e Lega per le regionali non piace ad una parte della base leghista. Sarà Toti il candidato in Liguria, gli azzurri sosterranno Zaia, ne parleremo tra poco col segretario leghista Salvini. Entra in vigore oggi la legge sulla non punibilità dei reati lievi, ci sono anche furto, diffamazione, truffa, ma a patto che non siano abituali e siano di scarsa entità. C'è un italiano tra le vittime della slavina di ieri in Francia, rischio valanghe alto in questo fine settimana di Pasqua per il quale le previsioni non promettono bene. Berlusconi sarebbe pronto a vendere il Milan ai cinesi secondo indiscrezioni di un'agenzia di stampa e cosa fatta avrebbe detto. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it e poi potete visitare il nostro sito www.radio24.it dove potete anche registrarvi e commentare direttamente. In apertura parliamo di un fatto di cronaca, del peschereccio affondato nelle Marche, ci sono due vittime, ci colleghiamo in diretta con la comandante Floriana Segreto della Guardia Costiera. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Qual è la situazione? Che cosa è successo questa mattina? Allora, questa mattina abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un peschereccio, del familiare, voglio dire, di un pescatore a bordo di un peschereccio. Ci avvisavano di un peschereccio che si era ribaltato. A bordo del peschereccio ci conferma intanto, comandante, che questo familiare era al telefono con la persona che si trovava, con una persona dell'equipaggio proprio in quel momento, ed è per questo che lo ha saputo e vi ha avvisati. Sì, confermo. Nell'immediatezza è intervenuto un altro peschereccio che stava operando lì in zona e ha tratto in salvo quattro pescatori. Due di questi, che versavano in grave stato di ipotermia, sono stati subito trasbordati a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, dove si trovavano già dei medici del 118. Purtroppo per questi due pescatori non c'è stato nulla da fare. Ci conferma che ci sono due dispersi, comandante? Sì, adesso le nostre unità, ben quattro motovedette della Guardia Costiera ed una ATR-42, sempre della Guardia Costiera, stanno ricercando i due dispersi. Stanno ricercando i due dispersi, quindi solamente due persone disperse al momento e quindi due persone non ce l'hanno fatta, ci conferma, e altre due sono state tratte in salvo. Confermo, due tratte in salvo, due morte subito dopo il recupero e due dispersi. E ci sono già indicazioni su cosa possa essere successo, sul perché questo peschereccio si sia ribaltato? No, le cause sono ancora da appurare e verranno ovviamente chiarite successivamente in fase di indagine. La ringrazio, grazie alla comandante Floriana Segreto della Guardia Costiera per questi aggiornamenti. E questa mattina almeno 50 persone sono morte nell'affondamento di un peschereccio russo con un equipaggio che veniva in realtà da vari paesi a largo della penisola della Kamchatka. Siamo al punto sui conti pubblici italiani con i dati diffusi oggi dall'Istat. Tanti numeri per descrivere la salute del paese, a cominciare dal rapporto deficit-PIL cresciuto nel 2014 dello 0,1 e arrivato a toccare così la fatidica soglia del 3%. Solo negli ultimi mesi dell'anno l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto interno lordo è cresciuto e non di poco, un punto percentuale in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Anche la pressione fiscale non ha scherzato e anche in questo caso l'impennata si è verificata in coda d'anno, 50,3% negli ultimi mesi, 43,5% nell'intero 2014. Ancora in calo la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 40,6%, il nuovo minimo dall'inizio delle serie storiche. La buona notizia, diciamo così, è che nell'anno passato il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,2%. Considerando l'andamento dell'inflazione, il potere d'acquisto è rimasto invariato. Ed è la prima volta dal 2007, rileva la Coldiretti, che non si registra un calo. Da qui la risalita della della spesa per consumi finali, sempre da parte delle famiglie, mezzo punto percentuale in più, addirittura superiore al dato sul reddito disponibile. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è una notizia, un'indiscrezione appena battuta dalle agenzie. Graziano Del Rio dovrebbe giurare da ministro delle infrastrutture al Quirinale, questo a quanto si apprende da fonti ministeriali citate dall'ANSA, alle 20, e quindi indiscrezioni a quanto pare, almeno per il momento, confermate però da altre indiscrezioni. Del Rio dovrebbe diventare ministro delle infrastrutture. La politica intanto però ci porta all'accordo di ieri sera per le regionali tra la Lega e Forza Italia. Nelle elezioni del 31 maggio Forza Italia e Lega Nord si presenteranno insieme in tre regioni. In Veneto il candidato comune sarà il governatore uscente, il leghista Luca Zaia. In Liguria, rinunciato alla candidatura di Edoardo Rixi, il Carroccio sosterrà invece il consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti. In Umbria, infine, il candidato scelto è Claudio Ricci, sindaco di Assisi, eletto con una lista civica già sostenuta da centrodestra e Lega. L'intesa raggiunta da Silvio Berlusconi e Matteo Salvini prevede anche che la Lega non si presenti in Campania, mani libere invece nelle altre regioni al voto, Puglia, Toscana e Marche. Nonostante la soddisfazione di Salvini, fra i leghisti oggi non mancano i malumori. A molti infatti non è piaciuta l'esclusione di Rixi in Liguria e sui social network sono già decine i messaggi di protesta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevamo, di questo torneremo a parlare più avanti. Alle 13.15 ospiteremo proprio Matteo Salvini e gli sottoporremo anche i dubbi di una parte dell'elettorato leghista. All'estero, il gruppo armato che ha fatto irruzione all'università di Garissa in Kenya avrebbe ucciso almeno 14 persone e preso in ostaggio diversi studenti. È quello che scrive la BBC, che cita fonti di polizia e organizzazioni umanitarie. Il gruppo armato sarebbe composto da almeno 5 uomini. Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo armato islamista somalo Al-Shabaab. Ed è quella di oggi, una giornata nella quale il terrorismo, l'estremismo è tornato a colpire in una serie di aree del mondo. Sono almeno 15 soldati uccisi oggi in un attacco ad un posto di blocco militare da parte di militanti islamici nella penisola del Sinai, soldati egiziani, mentre gli jihadisti dell'ISIS sono stati respinti ai margini del campo profughi palestinese di Yarmouk, alla periferia di Damasco, campo profughi che in realtà è un vero e proprio quartiere. Su tutto questo torneremo più avanti in effetto giorno. C'è anche un alto atesino tra le vittime della valanga che ieri ha travolto ed ucciso 3 alpinisti nel massiccio degli Écrins in Francia. Lo hanno detto fonti del club alpino austriaco. Le altre 2 vittime sono austriaci di Vienna e Salisburgo. Il rischio in questi giorni di Pasqua di valanghe naturalmente è molto alto. La legge riguarda reati punibili con un massimo. Con l'ombrello ma anche con temperature in picchiata, Pasqua, le incertezze si stanno dissolvendo, non le nuvole, sono sempre più confermati, freddo, neve, forti temporali. Unica consolazione, giorno di Pasquetta, sarà soleggiato su molte regioni ma decisamente più fresco. Il bel tempo e il sole dureranno fino a venerdì pomeriggio, in tarda serata i venti inizieranno a soffiare. Nella giornata di sabato le piogge si concentreranno su Alpi, Emilia Romagna e Toscana e nella notte un'ampia bassa pressione farà peggiorare il tempo proprio per Pasqua, qualche temporale, mentre la neve scenderà sopra i 700-1000 metri sui rilievi. Secondo Federalberghi, circa l'85% degli italiani non si muoverà da casa, soprattutto per motivi economici. Solo 9 milioni in vacanza, ma soprattutto nelle seconde case. Per chi sceglie la montagna, massima attenzione, come spiega Igor Chiambretti, responsabile tecnico di AINEVA, l'associazione delle regioni e province autonome dell'arco alpino italiano. Viste le condizioni di vento forte che abbiamo avuto negli scorsi giorni, si invita assolutamente alla cautela nell'eseguire fuori pista o gite fuori dagli ambiti controllati, in particolare alle alte quote, per il pericolo di distacco di valanghe a lastroni. Vale il proverbio, attento alla valanga, non sa che sei un esperto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da oggi è operativa la legge che consente ai giudici di archiviare i reati minori. La legge riguarda reati punibili con un massimo di 5 anni di reclusione o con una pena pecuniaria, che da oggi potranno essere archiviati in fase preliminare dal giudice, a patto che il fatto abbia scarsa entità e che il comportamento non sia abituale. Reati giudicati tenui saranno convertiti in illeciti amministrativi, per i quali dovrà essere pagata una multa anziché affrontare un processo. Potrebbero non prevedere più il carcere alcuni casi di furto semplice, frode informatica, appropriazione indebita, omissione di soccorso, diffamazione estorsione, truffa e altri reati, ma solo quando il danno causato è lieve, i motivi non abietti e dove non ci sia crudeltà nell'intento. La sanzione amministrativa potrebbe includere, oltre alla multa, anche il risarcimento del danno, l'interdizione dell'esercizio di un'attività o la chiusura di uno stabilimento. L'obiettivo della legge è quello di snellire il carico di procedimenti in tribunale e di smorzare il sovraffollamento delle carceri. Resteranno reati le sanzioni che provochino un danno a persone indifese o agli animali e in ogni caso la vittima potrà opporsi all'archiviazione. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continuano a circolare indiscrezioni in queste ore sul fatto che Silvio Berlusconi sarebbe pronto a vendere il Milan. Insomma, dalle voci che sono girate, Carlo, da quante ne sono girate, Carlo Genta, insomma, a un certo punto qualcosa di vero ci sarà. Non lo so, Simone, voci che non solo in questi giorni, ma in questi anni, insomma, qualche tempo che circolano, voci che circolano scioglilingua. L'ultimo, Zhong Qinggu, proprietario della Wahaha, sembra una risata, Group, ma è una grande azienda, la più importante produttrice cinese di bevande. Ci sono state queste indiscrezioni su contatti con il Milan, addirittura ci sono notizie d'agenzia per cui sarebbe fatta la vendita del 75% del pacchetto azionario per un'operazione da 1,5 miliardi, quindi tantissima roba, con Barbara Berlusconi che resterebbe amministratore delegato. Però dalla Cina arriva una smentita secca, pura finzione, non c'è stato alcun contatto col Milan, non abbiamo intenzione di entrare nel calcio, nel caso volessimo farlo prenderemo un club cinese, queste le dichiarazioni del gruppo cinese, quindi rimangono sul tavolo, sono le voci, ormai si perde il conto sui possibili acquirenti del Milan. Le voci rimangono sempre quelle di B, l'imprenditore thailandese che sarebbe attesa a Milano dopo le festività pasquali per tornare a parlare della questione, e poi quello di Vanda Group, proprietario di Infront, che però sarebbe interessato alla costruzione dello stadio per il quale le carte ancora non ci sono. Direi, Carlo, che visto quante voci circolano, insomma, magari non sappiamo qual è il compratore, ma che sia sul mercato ci sono pochi dubbi. Ma dal Milan si è sempre parlato di cessione di una quota di minoranza. È chiaro che è difficile trovare qualunque investitore che metta lì tanti soldi per poi alla fine essere comunque un socio di minoranza. Questa operazione sarebbe fattibile con Vanda Group, quindi questo gruppo cinese che è veramente molto forte e che sarebbe interessato essenzialmente alla costruzione dello stadio, e quindi con quelle carte l'affare si potrebbe sbloccare e la situazione potrebbe assumere questi contorni. Quindi entra un socio di minoranza, costruisce lo stadio e c'è questa sorta di sodalizio. Alla cessione della maggioranza del Milan, cioè la cessione della maggioranza del Milan, di fatto è sempre stata smentita da Fininvest. Vedremo cosa succederà. Intanto, Carlo, ti ritroviamo come sempre in tutti i convocati a partire dalle 14. È il momento di ricordare un anniversario, quello della morte di Giovanni Paolo II. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Le 21:37 del 2 aprile di 10 anni fa. Così le migliaia di fedeli in preghiera in piazza San Pietro appresero la notizia. Karol Wojtyła, dopo giorni di grande sofferenza, era morto. Un fiume di gente che da quel momento per giorni non lasciò più la piazza. Bambini, anziani, tantissimi giovani in fila per ore e ore per rendere l'ultimo omaggio al Papa polacco nella Basilica Vaticana. Ha vissuto da santo, proprio la sua vita è stata una santità, insomma, ha amato tutti, ha dato la vita per tutti. Lui ha fatto talmente tanto per noi che non si potevano venire a dirgli grazie. Il minimo che possiamo offrirle, guardi, è questo sacrificio sotto la pioggia, non è mai abbastanza quello che le stiamo dando. È santo perché senza tante cose lui ha dato la sua vita per noi praticamente. Abbiamo acceso questo cero in onore di questo grande Papa. Sereno, così chi gli rimase accanto nelle ultime ore di vita lo descrive. E così ricorda quei momenti lo storico fotografo di Wojtyła, Arturo Mari, per lui come un figlio. Quando io sono entrato nella stanza, lui era coricato sul lato sinistro. Don Stanislao ha detto al Santo Padre, Santo Padre, Arturo è qui. E ecco, la cosa che a me mi ha scioccato di questo momento è vederlo girato con un sorriso enorme che erano mesi che non si vedeva quell'espressione. E lì mi ha accarezzato, mi ha benedetto più di una volta, con un filo di voce fa: Arturo, grazie, grazie. E poi sempre con questo sorriso si è di nuovo rigirato sul lato sinistro con questi occhi enormi, ma si vedeva già che lui era pronto per un viaggio ancora più bello. Nella Basilica Vaticana dallo scorso anno, quando è stato canonizzato, c'è la tomba di Karol Wojtyła e la processione di fedeli continua. Monsignor Slavoj Miroder è il postulatore della causa di canonizzazione. Le lettere che abbiamo ricevuto riguardano sia le grazie ricevute, ma anche le domande per poter ottenere queste grazie, o semplicemente le testimonianze che riguardano la relazione che la persona ha avuto con la figura e la vita, il messaggio di Giovanni Paolo II. È veramente un santo che è presente nella vita vissuta della gente. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi qualcuno ci scrive: Salvini, sempre Salvini, non vi ascolto più, desalvinizzatevi. Guardi, Salvini non è ospite di Effetto Giorno, boh, non so, ma da almeno un mese e mezzo, due mesi. Oggi ci ritorniamo perché torniamo a parlare con lui subito dopo il traffico, perché c'è la notizia, l'accordo con Forza Italia per le regionali e anche un po' di mal di pancia leghisti. Il traffico. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. È affondato un peschereccio nelle Marche, due morti, due dispersi, due persone salvate. Uno dei superstiti ha detto: è stata un'onda anomala. Graziano Del Rio dovrebbe giurare da ministro delle infrastrutture al Quirinale, a quanto si apprende, a quanto dicono le agenzie. Alle 20 il Consiglio dei Ministri in effetti si riunisce, alle 17 per comunicazioni di Renzi. L'accordo tra Forza Italia e Lega per le regionali non piace ad una parte della base leghista, sarà Toti il candidato in Liguria, gli azzurri sosterranno Zaia. I conti del 2014, secondo i dati Istat: deficit PIL al 3%, pressione fiscale al 43,5%, riparte la spesa delle famiglie nel 2014, anche se di poco, con un più 0,5%. Entra in vigore oggi la legge sulla non punibilità dei reati lievi, ci sono anche furto, diffamazione e truffa, ma a patto che non siano abituali e siano di scarsa entità. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno e grazie per l'invito. Ho scorso un po' la sua bacheca Facebook prima di entrare in diretta e devo dire che qualche mal di pancia, più di qualche mal di pancia, a parte i suoi elettori per la decisione di appoggiare Toti in Liguria invece di Rixia, c'è. Ma per fortuna non abbiamo dei robot, ma abbiamo elettori, militanti e simpatizzanti che discutono, che a volte condividono le mie scelte. Ma come gliela spiega questa cosa a loro, Salvini? Che da soli non avremmo mai vinto in Liguria, così come da soli non avremmo mai vinto in Umbria. E quindi in Umbria abbiamo scelto di sostenere il sindaco di Assisi, che è un civico, non è della Lega, ma è una degnissima persona. E in Liguria Forza Italia ha tanto insistito per avere un suo candidato. Come Lega da soli non avremmo mai sconfitto la sinistra che è qua da decenni, in alleanza abbiamo qualche possibilità in più. Questo mi costa un sacrificio come Lega, sì, però d'altronde l'obiettivo generale viene prima il mio interesse particolare. In realtà non le piace un granché questa alleanza con Forza Italia? Ma guardi, in Toscana andiamo da soli, nelle Marche andiamo da soli, in tanti comuni andiamo da soli, in Veneto Forza Italia ci sostiene, ma Zaia avrebbe vince tranquillamente anche da solo, però mio dovere è unire, non dividere, e quindi lo faccio anche se mi può costare, sì. Però io stamattina ero a Sestri Levante insieme ai lavoratori della Fincantieri di Rigola Trigoso e i problemi del lavoro impongono di mettere da parte ogni tanto l'interesse personale. Sì, Devo dirle questo, che siete veramente su posizioni estremamente diverse rispetto a Forza Italia su una serie di elementi, e su questo vi siete anche scontrati, lei ha avuto anche parole piuttosto dure, insomma, penso ad esempio alla vostra battaglia per un'ipotesi di uscita all'euro che Forza Italia non condivide, penso banalmente al rapporto con l'Europa o con la Germania. Questo... Assolutamente, ma infatti se ci fossero elezioni politiche domani mattina la Lega andrebbe da sola. Cioè, un conto è il governo dell'Umbria o del Veneto o della Liguria che si occupano di scuole, di ospedali, di pronto soccorso, di case di riposo, e per fare una scuola o un ospedale devi farla bene, non è che devi fare un dibattito politico. A livello italiano ed europeo siamo su posizioni diverse, a livello europeo siamo in gruppi diversi, a livello italiano è 3 anni che noi siamo all'opposizione, mentre Forza Italia ha sostenuto il governo Monti, il governo Letta e ha fatto alcune riforme correnti, quindi è chiaro che a livello politico le posizioni sono distanti. Per fare per aprire gli ospedali a Vicenza si può stare insieme, anche se sull'euro la pensiamo in maniera diversa. Le politiche nazionali mi vedono molto lontano da Forza Italia, dal PD e da tutti gli altri, anche dai 5 Stelle. E quindi un'alleanza a livello nazionale, diciamo, non sarebbe pensabile. Se Renzi si dimettesse domani mattina per magia, cosa che mi augurerei per il bene dell'Italia, e si andasse a votare, la Lega correrebbe da sola. Occhio, farai la fine di Fini e Monti. Se lo ricorda chi l'ha detta questa frase? No. È proprio Toti, quello, il candidato che adesso sosterrete in Liguria. Ce l'aveva con me. Ce l'aveva con lei. E vedi che pazienza che ho. Poi qualcuno dice che sono un dittatore, invece sono troppo buono. Ma io ripeto, la Liguria ha bisogno di ferrovie, di strade e di meno cemento e meno alluvioni. E quindi la simpatia o l'antipatia di Toti viene dopo, perché prima vengono i progetti. Poi io tendo a perdonare. Ci chiede Francesco da Firenze, dice: ma perché se in Liguria non avreste vinto mai, quindi Toti, non fate lo stesso discorso per la Toscana? Perché in Toscana Forza Italia ha sempre inciucciato col PD, ce lo diciamo sottovoce, visto che siamo in radio io, lei e pochi altri, perché in Toscana Forza Italia non ha mai fatto opposizione, altrimenti scandali come l'ASDI, Massa Carrara, l'alta velocità a Firenze, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca dell'Etruria non sarebbero mai successi, quindi in Toscana non era ipotizzabile sostenere un candidato di Forza Italia, e in Toscana la Lega fa la sua corsa per avere un grande risultato. Grazie Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Grazie, buona giornata. Buona Pasqua. Buona giornata a lei. Saluto il tenente colonnello Daniele Mocio della Sala Previsioni Meteo dell'Aeronautica Militare. Tenente colonnello, buongiorno, benvenuto. Una buona giornata, grazie. Una buona giornata quella di oggi, mentre invece questa Pasqua ci scordiamo di prendere il sole? Ma non è detto, comunque certo, non avremo sicuramente queste temperature, questo sole così pieno che adesso sta coinvolgendo un po' tutte le nostre regioni. Non sarà poi così male, ecco, dovremo fare i conti con un peggioramento che si attuerà nella giornata di sabato, ma già, se vogliamo, nella parte della giornata di Pasqua lascerà il nord con il sole, che tornerà a comparire soprattutto sulle coste del Veneto, del Friuli di Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, della Liguria, magari qualche nube ancora sposterà al nord in pianura padana, ma in una situazione di complessivo miglioramento. E questo varrà anche per Toscana, Lazio e poi per le regioni tirreniche e meridionali, mentre domenica dovremmo fare ancora i conti con un po' di pioggia per quanto riguarda Marche, Umbria, zone un po' più interne dell'Umbria, le regioni che affacciano verso il Mar Adriatico. Al sud ancora abbastanza buona, a parte la Campania dove avremo un po' di pioggia, ma anche qui migliorerà. Il tempo più stabile, se vogliamo, lievemente più caldo, sarà quello che ritroveremo tra la Sicilia e le nostre regioni ioniche. Ovvio che oltre i tre giorni è sempre un po' più difficile, un po' più a rischio, però... Tradizionale gita fuori porta, Pasquetta, che ci dice? Sembrerebbe abbastanza buono un po' ovunque per quanto riguarda la giornata del lunedì dell'Angelo, ancora magari ecco il sud che vedrà soltanto proprio nella mattinata il passaggio di quelle nubi che nella giornata di Pasqua interesseranno il centro, ecco, sarà un po' più grigio se vogliamo, però fondamentalmente si vedrà il sole. Soltanto da contrastare c'è una cosa, il vento, no? Che se da una parte porta via le nuvole, dall'altra però magari può essere anche un po' insistente, questo soprattutto nelle zone, sull'intero centro se vogliamo, dalle Marche, alla Toscana, Umbria, Lazio e poi un po' più giù a sud durante la seconda parte della giornata. Ecco, si vedrà il sole, magari un po' più di vento, magari temperature lievemente più basse rispetto a quelle che ci aspetteremo, però fondamentalmente è una giornata di Pasquetta che può consentirci di uscire realmente. Grazie al tenente colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per queste previsioni per questo fine settimana. Le auguro buona giornata, buon lavoro e naturalmente buona Pasqua. E noi chiudiamo questa parte parlando di arte e non solo in realtà, perché il ministro dei beni culturali Franceschini sarà a Mantova oggi per la cerimonia di riapertura al pubblico della Camera degli Sposi di Palazzo Ducale. Franceschini dice che a pochi giorni da Expo c'è stato un sapiente lavoro di restauro, ma soprattutto la Camera degli Sposi di Palazzo Ducale era stata colpita durante il sisma. Il restauro è stato voluto e seguito dall'ex sovrintendente Giovanna Paolozzi Strozzi. L'ha sentita Adriana Fracchia. Penso di avercela messa tutta, questo lo posso dire. Tutte le torri del castello avevano avuto grossi problemi di consolidamento, quindi dovevamo intervenire abbastanza in fretta. Naturalmente abbiamo scelto la torre che più ci interessava immediatamente, avendo pochi fondi non necessari o sufficienti a intervenire su tutte e quattro, abbiamo scelto proprio direttamente quella della Camera degli Sposi, consolidando questa torre nord-est. Si parla di tanti metri quadri, è stata stimata sugli 11 milioni di euro. In realtà noi ne abbiamo usufruiti di 3 milioni di euro, però questi diciamo danno una grossa boccata di ossigeno e fermano le emergenze più evidenti. È chiaro che ci vogliono altri soldi per aprire altre zone che hanno necessità. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa, poi nella seconda parte della trasmissione dedicheremo una fascia di approfondimento a quello, all'estremismo islamico che è tornato a colpire oggi pesantemente in Kenya, mentre gli jihadisti e l'ISIS sono alla periferia di Damasco e i 15 soldati egiziani uccisi nel Sinai. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È affondato un peschereccio nelle Marche, 2 morti e 2 dispersi, è stata un'onda anomala, ha raccontato uno dei superstiti. Anziano Del Rio dovrebbe giurare da ministro delle infrastrutture al Quirinale alle 20. L'accordo tra Forza Italia e Lega per le regionali non piace ad una parte della base leghista, sarà Toti il candidato in Liguria, gli azzurri sosterranno Zaia. Conti del 2014, secondo i dati Istat, deficit PIL al 3%, pressione fiscale al 43,5%. La borsa. Arca SGR, più valore agli investimenti. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. E siamo ad un'ampia pagina di esteri nella quale vogliamo mettere insieme una serie di elementi e lo facciamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, col quale oggi ci prendiamo anche un po' più di spazio rispetto al solito. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, le notizie di oggi, iniziamo da queste evidentemente, notizie che ci raccontano ancora una volta di estremismo islamico, a partire dall'Africa dove questa mattina gli Shabab somali hanno colpito in Kenya uccidendo 15 studenti nell'università di Garissa, per passare alle tensioni che attraversano zone più vicine a noi. 15 soldati uccisi oggi nel Sinai, soldati egiziani uccisi oggi nel Sinai da estremisti, mentre l'ISIS avanza a Damasco sostanzialmente nel cosiddetto campo profughi di Yarmouk, che di fatto vuol dire essere a ridosso della capitale. Tra l'altro nei giorni scorsi abbiamo visto le tensioni che attraversano la Turchia. Tu oggi firmi un pezzo sul Sole 24 Ore che mette insieme, Kenya a parte naturalmente, un po' tutti questi elementi, collegando anche il tutto a quello che succede nello Yemen, alla trattativa con l'Iran per il nucleare, cioè c'è tutta un'area in forte tensione e fibrillazione, Alberto. Sì, in sintesi la mia idea è questa qui, insomma, che questo accordo con l'Iran mi sembra una grande occasione da non perdere. Perché? Perché ci mettiamo d'accordo con l'Iran, che comunque è uno Stato, comunque è uno Stato solido, che può comunque dare delle garanzie e che in ogni caso, insieme alle milizie irachene e ai curdi, sta battendosi contro il califfato, oppure fra un po' di tempo tratteremo con i barbari dello Stato Islamico se andiamo avanti di questo passo. A Damasco sono entrati ieri a Yarmouk, adesso hanno ripiegato le loro postazioni, quelli dell'ISIS, e sono proprio alle porte di Damasco. Ma io li avevo già visti l'anno scorso alle porte di Damasco, erano a 20 chilometri dal centro della città, adesso sono quasi dentro. Cioè, posso immaginare che non credo che possa essere valutata una buona notizia, per quanto noi pensiamo male del regime di Assad, che il califfato possa penetrare una città importante e simbolica come la capitale siriana, ecco. E purtroppo vediamo che questo sgretolamento del Medio Oriente coinvolge intere nazioni, dalla Siria all'Iraq, allo Yemen stesso, dove c'è in corso una guerra tra i ribelli Houthi e spezzoni del governo di Mansour Hadi sostenuto dall'Arabia Saudita, una guerra per procura tra Iran e Sauditi. E allo stesso tempo vediamo che da chi ne approfitta Al-Qaeda, che per esempio ha liberato 300 prigionieri dalle carceri. E insomma è sempre più difficile tenere insieme un Medio Oriente che sembra che stia per crollare. Quindi il tavolo di Losanna, insomma, è un modo per tentare di risolvere, almeno col dialogo e con la diplomazia, uno dei problemi della regione. Tra l'altro, le notizie di questa mattina che arrivano dallo Yemen raccontano di combattimenti in corso nella città di Aden, dove i ribelli sciiti dei quali parlavi si stanno combattendo contro le truppe schierate dall'attuale presidente, probabilmente in fuga, Hadi, mentre altre notizie ci raccontano, riferite dalla BBC, quindi fonte autorevole, che truppe straniere di nazionalità non precisata sono sbarcate in queste ore nella stessa Aden. Anche quella, Alberto, un'altra situazione letteralmente esplosiva, o meglio in esplosione. Diciamo un incendio che invece di spegnersi invece aumenta. Le agenzie dicono che queste truppe straniere non si sa di che nazionalità sia. Nei giorni scorsi si diceva che al largo di Aden c'erano truppe egiziane pronte a entrare in azione. Non sarebbe la prima volta nella storia dello Yemen. Ai tempi di Nasser l'Egitto intervenne, allora, ma allora erano altri gli schieramenti, erano quelli tra blocco orientale, blocco occidentale, tra est e ovest. E invece qui ci troviamo davanti a un arco della crisi che è molto più vasto. Lo Yemen, tra l'altro, ci dà l'opportunità per sottolineare una cosa, che in Yemen ci sono quasi 1 milione di profughi somali e a un braccio di mare, lo stretto di Bab el Mandeb, la porta delle lacrime, e potete immaginare che una destabilizzazione si salda a quell'altra, quella della Somalia, a quelli delle Shebab, che pur cacciati dalle città principali da Mogadiscio stanno premendo sui confini meridionali della Somalia e stanno destabilizzando la zona orientale nord e nord del Kenya. Ricordiamoci l'attentato terribile che ci fu al centro commerciale di Nairobi qualche tempo fa. Insomma, questo arco della crisi che parte dal Medio Oriente, un tempo partiva dall'Afghanistan, di cui ci siamo dimenticati, ma che non è per niente stabilizzato, attraversa tutta la Mesopotamia, tutto il Sinai, arriva fino allo Yemen, percorre tutta l'Africa, coinvolge la Libia, arriva fino alla Tunisia, per poi passare alla fascia subsahariana dal Mali fino alla Nigeria dei Boko Haram. Ecco, questo è il fronte di stabilità che abbiamo davanti. L'ultima domanda che ti voglio fare, Alberto, è in merito a quello che sta succedendo in Turchia, dalla quale tu tra l'altro sei tornato da poco. Abbiamo visto nelle ore scorse una serie di attacchi di estremisti di sinistra con la vicenda dell'uccisione del giudice, poi anche un tentativo di un attacco kamikaze. Vorrei un punto da te proprio sulla Turchia, che è un'altra nazione apparentemente stabile, ma che forse non lo è così tanto come ci sembra. Ah no, assolutamente no, sono d'accordo. Purtroppo ci sono fattori interni e fattori esterni. Citiamo subito quelli esterni. Oggi la Turchia ha 900 chilometri di frontiera con la Siria e 400 di questi confinano con il califfato. diciamocelo francamente, la Turchia di Erdogan ha lasciato filtrare per 4 anni migliaia e migliaia di jihadisti nella speranza che andassero ad abbattere il regime di Bashar Assad, e già questo ci dice quali stabilità ci sia ai confini della Turchia, per non parlare appunto poi anche del confine con l'Iraq, oltre quello con la Siria, ma è all'interno che la Turchia sta autoproducendo instabilità, e devo dirlo purtroppo la autoproduce anche per le politiche del governo della KP islamico di Erdogan, che in questi anni ha fatto in qualche modo di tutto per non in qualche modo affrontare i problemi anche sotterranei di questo paese. La Turchia ha alcuni problemi cronici, pensiamo al caso dell'irredentismo curdo che non si riesce ancora a risolvere, ma parliamo anche di tutti i movimenti estremisti di destra e di sinistra che hanno percorso per 30 e più anni la storia di questo paese per arrivare al terrorismo politico e religioso. Insomma, la Turchia di oggi è un paese anche paradossale, perché pensate, è un alleato della NATO da 60 anni. Ai Patriots creati al confine e sta negoziando con la Cina un sistema antimissilistico. E insomma, la Turchia sta in qualche modo giocando anche una partita molto pericolosa sulla politica interna ed estera che potrebbe produrre ulteriore destabilizzazione. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per averci accompagnato nel tentativo di capire cosa succede in un'area, come avete sentito, molto vasta, ma che in qualche misura, e come avete sentito da Alberto Negri, si collega. Traffico.